del cambiamento ambientale in America Latina piuttosto che sentire le nostre parole. Lo potete trovare e scaricare gratis su internet, c'è un link dal nostro sito che vi permette di raggiungerlo, e vi ricordo anche, per ascoltare passate trasmissioni e per rimanere aggiornati sulle notizie che vengono dall'America Latina, il nostro sito è comitatocarlosfonseca.noblogs.org. Puro bla bla bla, y nada de verdad contigo, puro bla bla bla, mentira sin parar, puro bla bla bla, y nada de acción. Ya estamos listos para tomar el control, estamos armando el poder caracol, escúchalo como suena. E parliamo appunto di Brasile, il più grande, il più esteso paese dell'America Latina, quello che comprende la maggior parte della foresta amazzonica ed anche un paese in questi anni, nell'ultimo decennio, in straordinaria espansione economica, un'espansione che lo proietta ai primi posti per il presente, ma ai primissimi per il futuro, come tra i paesi più potenti economicamente al mondo e come potenza regionale anche in America Latina. Prima di tutto una potenza demografica, con 200 milioni di abitanti, è il paese più grande dell'America Latina e comprende quasi la metà di tutta quanta la popolazione dell'America Latina. No sé qué está pasando aquí, tanta pobreza y desigualdad, la ira come... Contenendo la maggior parte della foresta amazzonica, anche il paese con maggiore biodiversità al mondo, ossia maggiore diversità di specie animali e vegetali che appunto trovano come migliore habitat proprio la foresta amazzonica, foresta che però è costantemente minacciata dalla deforestazione, sia causata dall'industria del legname che appunto esporta e vende il legname che taglia nella foresta, sia per mettere a coltivazione le terre strappate all'agricoltura. Sebbene negli ultimi 20 anni la percentuale di territori terrestri e marini protetti sia passata dal 9 al 29%, ci fa notare questa Atlante, la deforestazione non è stata arrestata e la superficie coperta da foresta in Brasile è calata dal 62% al 57%, quindi calcolando l'immensità della superficie forestale brasiliana dovuta proprio alla presenza della foresta amazzonica, il 5% è una cifra importante anche su un periodo di tempo lungo 20 anni. Anche le emissioni di anidride carbonica sono aumentate. L'anidride carbonica è uno dei responsabili del riscaldamento climatico, sono appunto quei gas serra che portano a aumentare la temperatura media terrestre, con tutte quelle conseguenze nello scioglimento dei ghiacci che abbiamo visto pure la volta scorsa rispetto allo scioglimento dei ghiacciai in Cile e in Argentina. Son varios tópicos poco típico que somos, vamos a tracción humana, rimas, rimadores, prisioneros y presiono, estamos acá, de parrilla permanente, en la calle, siente cuando alguien miente, desde un kilo de año, con nuestro vecino, forjamos destinos, buscamos caminos en público clandestino, tú ya sabes dónde nos puedes pillar, siempre contestamos el mail o el celular, si no tienes ninguno de estos medios, no encontramos. Comunicación es la cuestión más importante, porque sin ella no hay unión. Debemos tener el acceso a la información. E il Brasile è proprio tra i primi paesi per emissioni di gas serra. Emissioni sia di anidride carbonica sia di metano, che invece viene prodotto proprio dall'industria agricola, dai macchinari, dai trattori, dalle trebbiatrici che vengono utilizzate dall'industria agrícola. Industria agricola che quindi colpisce tre volte la situazione ambientale del Brasile, una volta come diciamo sostituzione della foresta, un'altra volta come produttrice di gas inquinanti, di gas serra, e un'altra volta come fattore del dell'impoverimento del suolo e quindi della sua successiva, dopo vari passaggi, desertificazione. E la desertificazione è particolarmente avanzata, infatti, nord-est del paese, dove l'industria della la coltivazione industriale della canna da zucchero va avanti ormai da 4 secoli. Però ne guayorchi sano è il miglior gruppo che esiste, armando una toccata un foro non viste o no, agosto negro Chile collettivo. Le guayorchi somos la voce che si alza in cada esquina, in cada rincón. E dicevo di queste foto satellitari, molti di queste mostrano proprio gli effetti della deforestazione. Pensate che ogni anno la foresta amazzonica perde 7500 chilometri quadrati, anche se fino al 2004 ne perdeva molti di più, 28.000 chilometri quadrati all'anno. È comunque una cifra impressionante, considerando l'importanza della foresta amazzonica per il clima di tutto il pianeta e non solo dell'America Latina. E queste foto ci mostrano, sono scioccanti perché mostrano dei territori, naturalmente tra i territori più colpiti dalla deforestazione. Una foto mostra come procede questa attività di deforestazione, formando, loro chiamano una deforestazione a spina di pesce, perché parte dalle strade che facilitano l'arrivo e il trasporto del legname, e quindi si vedono questi sentieri di aree disboscate incunearsi dentro la foresta a partire dalla strada. E appunto c'è la foto della regione di Rondônia al confine con la Bolivia, una di quelle più deforestate. Pensate che si è passati da un 1,76% di territorio senza foreste nel 1978 a oggi ben il 34% è stato deforestato, quindi colpita in maniera impressionante dalla deforestazione. Si vede la strada che passa attraverso questa regione, dalle quali partono le aree deforestate a spina di pesce lungo di essa. A causare la deforestazione anche le costruzioni di grandi infrastrutture come strade, che appunto la facilitano nel modo in cui dicevo prima, e dighe e strutture per l'estrazione mineraria. La diga Balbina sul rio Uaturna, un affluente del rio dell'Amazzoni, serve a sostenere le necessità energetiche di Manaus, la città costruita a metà del rio delle Amazzoni, una centrale che ha causato una diga che ha causato la perdita di 100 milioni di tonnellate di vegetazione, inondando un terzo del territorio degli indigeni Vaimiri Atroari e liberando una quantità di CO2 e metano superiore a quella di un impianto termico con lo stesso potenziale energetico. Nonostante tutti questi danni, la diga non riesce nemmeno a soddisfare le necessità energetiche di Manaus e lavora al di sotto della metà del suo potenziale. Quindi si vede come spesso queste grandi infrastrutture siano pianificate in maniera pessima, non riescono nemmeno ad uguagliare le aspettative, no? Spesso anche per giustificare qui in Italia la costruzione di opere come la TAV, come gli inceneritori, si dice che sono opere necessarie, che miglioreranno l'economia e la vita dei territori nei quali vengono costruite, ma in realtà non servono a niente, servono solo ad aumentare le speculazioni, il giro di soldi che è attorno a queste opere, e spesso, appunto, come nel caso di questa diga, non riescono nemmeno a soddisfare i bisogni che invece hanno stimolato la loro costruzione. Pugno arriva, pugno, pugno, sì. E la coltivazione intensiva della terra causa l'impoverimento del suolo e alla lunga la desertificazione. Infatti, non a caso, le zone più degradate, ben 1,34 milioni di ettari, quindi una superficie immensa, si trovano nel nord-est del paese, che fin dal XVII secolo era sede delle piantagioni di canna da zucchero che veniva coltivata dagli schiavi di origine africana deportati appunto dal loro continente in Brasile. La produzione agricola non è, come dicevo, l'ultimo fattore dell'emissione di gas a serra, e si stima che almeno un quinto delle emissioni totali vengono dalla sola produzione di riso dello stato di Rio Grande do Sul. Quindi la sola produzione di riso di questo stato, che appunto utilizza degli impianti di irrigazione che emettono gas serra, per la precisione metano, sono responsabili di ben un quinto di tutte le emissioni di gas serra del paese. Oltre ad utilizzare una cifra impressionante di metri cubi d'acqua, addirittura tra gli 8.000 e i 12.000 metri cubi d'acqua al giorno. L'original, lo esenziale. Reverdece ya todo eso que antes era oscuridad. Entre la piedra y el concreto, mira, volverá a brillar. Ahí va la vida que va abriéndose paso entre el asfalto, haciendo un lado lo artificial, también lo falso. Se borrarán los pasos de esta enferma sociedad, permitiendo el nacimiento de una nueva humanidad. Comunidad mundial, atentos que eso es lo que viene. Comunidad mundial, y que mi canto aquí resuene. Y que mi canto aquí resuene. Este número queremos dedicarlo a los que han sido y serán los grandes del son: Tito Gómez, Miguelito Cuní, Félix Chapotín, Arsenio Rodríguez, Roberto Faz y Benny Moré. Ellos, con su trabajo, han hecho posible la realización de esta modesta obra. Para ellos, son para un sonero. Yo soy sonero. E altri danni all'ambiente, in questo caso all'ambiente marino, derivano dalla grande densità di popolazione che vive sulle coste del Brasile. Più della metà della popolazione brasiliana vive a meno di 200 km dal mare tutte le più grandi metropoli del paese sorgono lungo la costa atlantica. Ad aumentare inoltre l'inquinamento marino è l'estrazione petrolifera in alto mare, con le sue perdite inevitabili, con il lavaggio delle cisterne delle petroliere e con gli scarti dell'estrazione del petrolio buttati in mare. E spostiamoci ora in Paraguay, un territorio che si trova ai margini del Brasile, ma che è molto influenzato dall'economia brasiliana, sia perché molti imprenditori brasiliani sono proprietari di estese terre coltivate a soia nell'est del paese, sia perché appunto il modello agricolo utilizzato è proprio quello dei campi di soia finalizzati all'esportazione di questa cultura, come nel sud del Brasile, con il quale confina. Il Paraguay infatti si divide in due grandi zone: un paese per due terzi pianeggiante attraversato dal Rio Paraguay, e la parte occidentale è quella più grande ma anche quella meno popolata. Infatti nella parte orientale più piccola si concentra bene il 97% della popolazione, quindi praticamente tutta la popolazione paraguayana vive a est del Rio Paraguay. Questa regione, quella orientale, è anche quella dove si localizza la maggior parte della produzione agricola, mentre ad occidente ci sono i pascoli, dove l'allevamento dei bovini viene praticato in maniera estensiva. Oltre all'esportazione di prodotti agricoli e dell'allevamento, recentemente l'economia paraguayana si regge anche sull'esportazione di energia, in questo caso energia idroelettrica ricavata da due grandi impianti idroelettrici, quindi due grandi dighe sul fiume Paraná, uno condiviso con il Brasile e uno condiviso con l'Argentina, anche questi con non pochi danni ambientali, come vedremo tra poco. Ma i danni ambientali maggiori sono quelli causati anche qui dalla deforestazione finalizzata alla coltivazione intensiva della soia. Pensate che in 14 anni la superficie forestale, anche questa concentrata per la maggior parte ad est, è calata del 7%, dal 53% al 46%. Maggiormente colpita è stata la foresta atlantica sudamericana, una foresta che il Paraguay condivide con il Brasile e con l'Argentina, che è ormai ridotta al 7% della sua superficie originaria, la superficie che aveva prima degli ultimi 200 anni, praticamente, forse anche prima, quando gli europei sono arrivati in Sud America. In Paraguay la deforestazione è iniziata più tardi, ma ha proceduto a velocità impressionante. Pensate che mentre nel 1945 questa parte della foresta, la parte paraguayana della foresta atlantica, copriva 8,8 milioni di ettari, oggi arriva solo a 1,7 milioni di ettari. Deforestazione che fino agli anni 80 era finalizzata soprattutto all'esportazione del legname, ma che appunto dagli anni 80 ha visto l'agricoltura, la coltivazione della soia diventare la principale attività economica dell'Oriente. E molte foto ci mostrano appunto l'avanzata della frontiera agricola, sia a ad est, sia nella, in una, nel dipartimento del Boquerón, che invece si trova nell'ovest paraguayano, ma che concentra il concentra tutte le coltivazioni praticate nell'ovest paraguayano, e quindi si trovano tutte nella stessa zona, e anche lì la deforestazione è molto alta. Dicevo prima delle dighe, che anch'esse causano dei gravi danni all'ecosistema, quella di Yacyretá Pipé, che il Paraguay condivide con l'Argentina, ha una capacità di 3100 megawatt, ma ha comportato lo spostamento forzato della popolazione che abitava nei suoi dintorni. L'aumento della disponibilità d'acqua ha consentito l'aumento anche dell'agricoltura nei territori circostanti, con un conseguente aumento della pressione agricola sulla terra, e la concentrazione dell'acqua in quella zona ha privato le paludi di acqua dolce degli esteros de Libera di molta dell'acqua che avevano, causando dei danni al ricco ecosistema locale, che serviva anche come fonte d'acqua per la popolazione che abitava nei pressi di questa palude. E prima di concludere con la Bolivia, vi lascio con un'altra canzone. Francisco Villa, de aquel hombre de fama mundial, que aunque estuvo sentado en la silla, lo envidiaba la presidencial. Ahora vivo allá por la orilla, recordando aquel tiempo inmortal. Allá por Parral. Yo fui uno de aquellos dorados que por suerte llegó a ser mayor. Por la lucha quedamos lisiados, defendiendo la patria y honor. Hoy recuerdo los tiempos pasados que peleamos contra el invasor. De aquellos dorados que yo fui mayor. Mi caballo que tanto montaba, en Jiménez la muerte encontró. Una bala que a mí me tocaba, a su cuerpo se le atravesó. Al morir de dolor relinchaba, por la patria la vida entregó. Ay, ay, al morir de dolor relinchaba, como les lloraba cuando se murió. Pancho Villa, que llevo grabado en mi mente y en mi corazón, y aunque a veces me vi derrotado por las fuerzas de Álvaro Obregón, siempre anduve como fiel soldado hasta el fin de la revolución. Siempre ha luchado al pie del cañón. E concludiamo questa nostra panoramica di oggi sulla situazione ambientale in America Latina, panoramica che continueremo anche i prossimi lunedì, non lunedì prossimo, che infatti salteremo purtroppo la nostra consueta trasmissione settimanale, ma il lunedì successivo, che credo sia il 7 febbraio. Quindi Bolivia, o anche questo un territorio molto diverso geograficamente come situazione ambientale, c'è la foresta amazzonica nel nord del paese, nell'est c'è passano una parte delle Ande, mentre ad ovest, nella maggior parte del paese, in circa il 45% del paese, si trovano delle grandi pianure tropicali. Anche questo paese trae gran parte della sua ricchezza, gran parte delle sue esportazioni consistono in prodotti minerari, che per la gran parte sono idrocarburi, petrolio e soprattutto metano, gas naturale. Gli idrocarburi sono situati nella parte orientale del paese. Molti di voi ricorderanno che questo è proprio all'origine delle differenze del conflitto tra il governo di Evo Morales e i governanti e i dipartimenti orientali, che sono abitati prevalentemente da bianchi, da discendenti degli europei, mentre la popolazione india, che in Bolivia è particolarmente consistente, più del 50% della popolazione, con ben 38 nazionalità indigene, vive nel ovest del paese, soprattutto sulle Ande. Sulle Ande, dove ci sono altre estrazioni minerarie, come quella di argento a Potosì, che per le sostanze che utilizzano, parlavamo prima in apertura della trasmissione di questa nuova miniera di oro in Colombia, dove appunto hanno utilizzato il cianuro, tutte queste sostanze tossiche servono a sciogliere, a separare il metallo prezioso, il metallo per il quale è finalizzata l'estrazione mineraria, dai detriti, dalle terre più povere. Sono tutte sostanze tossiche che poi spesso vengono smaltite in maniera poco rispettosa degli abitanti locali e dell'ambiente, finiscono nei fiumi, finiscono nelle falde acquifere e spesso portano a un inquinamento dei suoli e delle acque che poi sfociano direttamente in malattie per la popolazione che si ciba dei prodotti coltivati su quei suoli e beve l'acqua inquinata da queste sostanze tossiche. Anche in Bolivia la deforestazione è aumentata a causa della coltivazione della soia, che oggi abbiamo visto essere il mostro agricolo che ha conquistato il sud del Brasile, il Paraguay, la Bolivia, ma ne abbiamo parlato anche la volta scorsa rispetto all'Argentina e all'Uruguay. La soia, che viene esportata soprattutto in Cina ma anche nel resto del mondo, per sia come come alimento umano, diciamo, sia come alimento animale, come foraggio che serve appunto all'allevamento del bestiame, e poi bestiame che fornisce la carne che viene venduta in tutto il mondo. Quindi un'America Latina produttrice di soia finalizzata all'alto consumo di carne che si mangia nel resto del mondo, ma soprattutto nell'Occidente ricco e nell'Estremo Oriente. La soia copre addirittura il 50% delle coltivazioni della Bolivia, e in questo mostra un altro problema di questi paesi dell'America Latina, ma come i paesi dell'Asia e dell'Africa. Sono paesi che spesso concentrano la loro produzione agricola, la loro economia, attorno a uno o due prodotti dai quali dipendono per riuscire ad accumulare quella ricchezza che poi viene scambiata con altri prodotti comprati all'estero, e quindi restano dipendenti dall'oscillazione dei prezzi di quei prodotti. Quando il prezzo della soia è alto riescono ad ottenere più profitti, quantomeno i proprietari terrieri riescono a ottenere più profitti, e quando il prezzo si abbassa tutta l'economia sprofonda con i prezzi della soia o delle banane in Centro America o del cacao in Brasile e in Colombia. Il paese ospita anche il 22% dei ghiacciai andini, sui quali si vede l'effetto del riscaldamento globale in maniera ancora più marcata che in Argentina e in Cile, come avevamo visto l'altra volta. Pensate che tra il 1963 e il 2006, quindi in soli 40 anni, il volume dei ghiacci si è ridotto di ben il 43%, quindi si sono sciolti quasi la metà dei ghiacciai che appunto esistono in Bolivia. E da questi ghiacciai dipende l'approvvigionamento idrico di città come La Paz e dell'Alto e i pascoli andini, che senza l'acqua di questi ghiacciai, perché quando i ghiacciai si sciolgono parzialmente in primavera, forniscono l'acqua sia per le città sia per i corsi d'acqua che poi forniscono l'acqua alle città, sia per i pascoli dove vengono allevati i lama o gli alpaca. E questi pascoli si stanno inaridendo, finalmente sono riuscito a pronunciare questa parola, e con effetti drammatici per l'economia locale. Sigo mi destino e non sé por qué. E anche qui le foto satellitari ci mostrano l'aumento della deforestazione, come nel Dipartimento di Santa Cruz, dove si concentra praticamente tutta la coltivazione della soia e dove solo tra 1993 e 2000, in soli 7 anni, 200.000 ettari di foreste sono stati abbattuti per fare posto alla coltivazione della soia. Lo haremos tú y yo, nosotros lo haremos, tomemos la arcilla.